Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. E anche questa è una di quelle puntate che io mi sono tenuto da conto, come quando ti danno un piatto di pasticcini e tu lasci per ultimo, comunque verso il fondo, quello che ti piace di più, perché il nostro protagonista di oggi è la figura della musica. Per quanto mi riguarda è uno dei miei musicisti di riferimento da sempre, uno di quelli grazie ai quali io oggi faccio questo mestiere, però è soprattutto una figura molto complessa, dalle mille sfaccettature, merita molti approfondimenti sulla sua personalità, è una delle figure più influenti della musica contemporanea, ha saputo lasciare un'impronta indelebile in molte vite, come vi ho detto, nella mia di certo, eppure non essendo un personaggio popolarissimo nella accezione più ampia di questo termine. Insomma, vi sto parlando di Lou Reed, il cantore dei bassifondi della psiche umana, è quello che ha saputo rendere poetiche la droga, l'omosessualità, la trasgressione, l'incesto, l'omicidio, è riuscito a fare delle poesie su qualcosa che per altri era solo bassifondi della psiche umana. Ci ha raccontato tutti i tormenti e gli incubi dell'uomo moderno, come nessun altro cantautore è stato capace di trasportare la poesia e la narrativa nella musica. Ha creato composizioni a volte sperimentali, ma ha dato anche vita a canzoni di enorme appeal, di enorme successo di pubblico. Ascoltate cosa diceva lui stesso a questo proposito. Desidero combinare insieme la musica e un pensiero letterario, che però non allontani la gente dai dischi. Ti diverti con le chitarre e i tamburi, ma ascolti qualcosa che non sia, se non proprio Dostoevsky, almeno qualcosa di sostanza. Che sia, se non illuminante, almeno interessante. Perché io amo veramente il rock and roll e amo l'idea di combinare insieme i miei due interessi, la scrittura e il rock and roll. Mettere insieme le due cose che amo di più. Stiamo parlando di un uomo che ha dedicato un intero album a Edgar Allan Poe, ha scritto canzoni che sembrano delle novelle di Raymond Chandler, che era uno dei suoi scrittori preferiti, ha dedicato poesie d'amore alle donne che amava, che sono state delle vere e proprie muse della poesia di avanguardia, ha fondato i Velvet Underground, di cui abbiamo ampiamente parlato nella puntata dedicata a Nico e in quella dedicata a Andy Warhol. Insomma, è stato veramente un precursore e con Andy Warhol ha dato vita a un album mitico che è il primo, quello diciamo della banana, The Velvet Underground e Nico. Lou Reed nasce il 2 marzo del 1942 a Brooklyn, New York, la città che lui più amerà, la quale dedicherà canzoni e anche un intero album. La sua è una famiglia ebrea benestante, è un po' questa la chiave di tutto, perché probabilmente se i suoi fossero stati più poveri avrebbero reagito ai problemi del figlio in maniera diversa. Lui è un ragazzino tranquillo, intelligentissimo, amante della scrittura, pubblica addirittura una rivista letteraria, però i suoi genitori, se riescono a tollerare la passione per il rock and roll e per il rhythm and blues, non accettano alcuni suoi atteggiamenti che vengono definiti da loro turbe. Stiamo parlando di un periodo in cui medici ottusi e irresponsabili chiamavano turbe tutto ciò che usciva dalla sessualità normale. Insomma, Lou Reed era omosessuale e questo era inaccettabile per la sua famiglia. Ascoltate il racconto scioccante di Victor Bocris, amico e poi biografo di Lou Reed. Lou in origine voleva fare lo scrittore. Quando era al college scriveva racconti brevi, aveva anche pubblicato una sua rivista. Ma quando ebbe i trattamenti di elettroshock non si ricordava più niente. Leggeva qualcosa e non se lo ricordava. Apriva un libro e non sapeva dove era arrivato a leggerlo. perché l'elettroshock ti toglie la memoria a breve termine, per una settimana più o meno. I genitori gli fecero questo per curarlo da una sua presunta omosessualità. Ve lo immaginate? Ce lo portarono senza dirglielo. Gli dissero solo «andiamo dal dottore». È stato un tradimento pazzesco. Credo che il tradimento dei suoi genitori, in particolare quello della madre, fu ancora più scioccante del trattamento in sé. Se esiste l'inferno, spero ci sia posto per genitori del genere. Elettroshock a 15 anni, trattamenti ripetuti per curare le sue presunte turbe omosessuali. E Lou Reed vive nell'orrore in cui viene gettato dai suoi stessi genitori, quelli che dovrebbero proteggersi dalle brutture del mondo. Lo spingono in un baratro aberrante che lo trasforma per sempre, che gli impedisce tra l'altro di coronare il suo sogno, perché i trattamenti tolgono per sempre la capacità di creare opere di lungo respiro. Riuscirà a scrivere da allora solo racconti brevi. Per fortuna, nemmeno l'elettroshock riuscirà a domare la forza e la potenza creativa di Lou Reed. Il falco e il gabbiano. L'esperienza dell'elettroshock segnerà tutta la vita di Lou Reed. È da un certo punto di vista in positivo solo per il fatto che non aveva paura di niente, anche quando era andato a vivere nei bassi fondi di New York. Peraltro, però, un suo amico racconta che l'unica volta che lo vide terrorizzato fu quando si erano imbattuti casualmente nei suoi genitori, che lui non vedeva mai. Non so se mi spiego. Lou Reed, nonostante questa famiglia assurda che si ritrova, riesce addirittura a laurearsi alla Syracuse University, dove ha la fortuna di avere come professore lo scrittore e poeta Delmer Schwartz, allora già anziano, malato, alcolizzato, ma che ha un'influenza determinante nella sua formazione, tanto che Lou, nel primo mitico album dei Velvet Underground, gli dedicherà la canzone European Son. The bias of the father runs on through the sun, leaving him bothered and bewildered. The drugs in his veins only cause him to spit at the face staring back in the mirror. Sicuramente, grazie al professor Schwartz, Lou Reed si forma quella cultura letteraria che lo porterà verso le sue produzioni musicali successive. Abbandonata l'idea di fare lo scrittore a causa proprio dei postumi dei trattamenti di elettroshock, inizia a scrivere testi per canzoni, ma anche delle musiche per la Pickwick Records, una piccola etichetta. E siamo nel 64, le sue composizioni vengono ritenute così interessanti, anche perché cantate da una voce particolare, che la casa discografica gli mette in fretta e furia in piedi una band che si chiama The Primitives, non quelli di Mal, ma quelli di un genio assoluto di cui un giorno vi prometto che parlerò, John Cale, un polistrumentista classico che arriva dal Galles, e loro un incontro che cambierà le vite di tutti e due. Ascoltiamo John Cale. Mi sembrò estremamente vulnerabile, con una necessità viscerale di urlare la propria identità. E la sua identità era particolarmente chiara quando attaccava gli altri. Credo che sia un comportamento abbastanza comune. La gente trova se stessa attaccando gli altri. Questa persona psicologicamente disturbata stava cercando un'espressione artistica. Questo stava capitando anche a me. Cercavo un ruolo nella musica classica che però non mi dava alcuna corrispondenza con il mondo esterno. Cercavo di fare chiarezza dentro di me. Usavo l'improvvisazione per trovare me stesso. Le parole non erano un elemento al quale ero abituato, anche se mi piacciono tutte le sperimentazioni linguistiche. Invece Lou era abilissimo con le parole, in maniera spontanea. Creava facilmente forme eleganti di prosa e di poesia. Lou Reed e John Cale si mettono a suonare assieme, fanno altri gruppi, ma ben presto danno vita a quello che sarà considerato uno dei pilastri del rock, una band con un chitarrista e bassista Sterling Morrison e un batterista prima Angus MacLise, ma poi soprattutto una ragazza, Maureen Tucker, una batterista grande anche perché suona la batteria in maniera completamente diversa, con la cassa rivoltata, cioè il braccio destro suona la cassa. Questa è la formazione storica dei mitici Velvet Underground, che devono il nome al libro del giornalista Michael Lake, che descrive il sottobosco sessuale underground americano dei primi anni 60. E loro cominciano a esibirsi al Greenwich Village di New York, e proprio in uno di questi locali che la sera del 15 dicembre 1965 alcuni componenti della Factory di Andy Warhol ascoltano questo sound e ne parlano proprio con lui, e l'incontro con il genio della pop art cambierà radicalmente le sorti della band e di tutto il rock di sempre. Ascoltate Lou Reed. We're very close. Eravamo molto vicini, non per paragonarmi al genio di Warhol, ma noi eravamo la sua sola ed unica band, la Factory Band. Gli unici lavori che facevamo erano nei musei dove lui faceva le sue installazioni, e noi eravamo parte di quelle installazioni. Portavamo occhiali scuri perché lui ci illuminava e ci faceva delle foto. Realizzava anche alcune scene dei suoi film. È stato il primo. Era una persona incredibile in tutti i sensi. Non so nemmeno da dove iniziare a dirlo. I can't even begin. Andy Warhol, lo sapete, ve l'ho già raccontato, suggerisce alla band di assumere un'attrice modella tedesca, Nico, Krista Pafgen, la sua pupilla, ai tempi compagna di Brian Jones. E con Nico i Velvet esordiscono nel 66, partono per una tournée con lo spettacolo sperimentale di Warhol, Exploding Plastic Inevitable Show, un mix di musica, danza, proiezioni, dove Lou Reed inizia un percorso di unificazione tra musica e letteratura con il suo cantato parlato, con cui esprime testi che trattano di morte, solitudine, droga, sesso, alienazione urbana. Intanto esce un disco, The Velvet Underground e Nico, nel 67. È un disco che non tutti comprano, anzi vende pochissimo, però come disse Brian Eno, tutti quelli che hanno comprato quell'album hanno formato una band. È forse l'album più importante, influente e acclamato della storia del rock, peraltro famoso anche per la straordinaria copertina con la banana gialla sbucciabile disegnata da Warhol. L'album è scritto da Lou Reed con John Cale, che scrive 3 delle 11 tracce. Come vi ho detto, l'album è un totale insuccesso commerciale, ma il tempo ha cambiato radicalmente le sue sorti. E pensate che nel 2006 il prestigioso periodico britannico The Observer lo ha dichiarato primo tra tutti gli album che hanno cambiato la storia della musica. Quindi un grande riconoscimento per Lou Reed, un artista che è stato un grande precursore. Poi dopo questo primo album Nico se ne va, la band cambia strada, anche Andy Warhol è preso da altro, arriva un manager che si chiama Steve Sesnick. Insomma, nel 68 viene pubblicato un secondo album, White Light White Teeth. Non è all'altezza del primo, però Lou Reed prende in mano la situazione e affronta ancora i temi dell'alienazione, della paranoia, della droga, del sesso, ma anche della follia e dell'omicidio. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando un'epopea della musica, perché Lou Reed, il nostro protagonista, è senza dubbio uno dei più grandi autori del panorama musicale contemporaneo. È uno che ha lasciato un lascito, un'eredità preziosissima per tutti. Poi personalmente è stato veramente quello grazie al quale io faccio il musicista. Peraltro io sono stato l'ultimo, sicuramente l'ultimo italiano, ma probabilmente anche l'ultimo europeo a intervistarlo in un albergo di Londra in occasione dell'uscita del suo ultimo album, quello che fece con i Metallica. Comunque, bando ai sentimentalismi, il rock alternativo dei Velvet Underground, fondamentale nella carriera lunghissima di Lou Reed, in qualche modo ha segnato il destino di tutta la musica rock, anche con le alterne vicende seguenti, perché poi dopo White Light White Teeth anche John Cale lascia il gruppo, Lou Reed incide un nuovo album che contiene brani alcuni non all'altezza dei primi, ma altri fantastici come la dolcissima Pale Blue Eyes, per esempio. Sometimes feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. E poi esce Loaded nel 70, l'ultimo album di Lou Reed con i Velvet Underground. Anche questo è un album che ha ancora un lieve calo, però sforna due canzoni che rimarranno storiche: Rock and Roll e soprattutto forse la prima canzone che io ho cantato da ragazzino e che poi ho rinciso, la mitica Sweet Jane. Il gruppo però si dissolve, salvo poi vivere una reunion mitica nel 1993. Esce un album nel 1972, un album che non ha successo e che effettivamente non era neanche un grande album. L'album si chiama proprio Lou Reed. Ci sono insomma tutte le condizioni perché Lou Reed sia pronto a tornare nel dimenticatoio. Così non è, grazie a un colpo d'ala non tanto suo quanto quello del suo nuovo produttore, perché c'è un grande artista che decide di affiancare il suo destino a quello di Lou Reed, di produrli un album. È l'uomo del quale stiamo parlando questi giorni, ne parleremo ancora lunedì e martedì, perché l'incontro chiave della vita di Lou Reed è quello con David Bowie. Un brand manager mi fece sentire i Velvet molto presto, erano i primi anni 60, e mi disse: non capisco perché Warhol stia facendo questo, la loro musica è brutta come i suoi quadri. E io pensai: mi piacerà. Non avevo mai sentito niente del genere, fu una rivelazione. Lui era così generoso. Lavorarci insieme, ero pietrificato dal fatto che avesse accettato di lavorare con me e anche dalle sue capacità come produttore. Io avevo delle idee, ma ero intimidito dalle mie poche conoscenze di un lavoro che lui invece aveva già fatto. Anche se non abbiamo una grande differenza di età, 5 anni, Lou aveva un'esperienza di lavoro enorme. E così questa coppia dà vita a un album storico. 1972 esce Transformer, primo grande successo dell'artista, con canzoni tutte sue, ma mediato anche dall'incontro con il team di lavoro di David Bowie. E in teoria avrebbe dovuto essere bloccato e censurato, anche perché in copertina c'è una bellissima donna che poi si scopre invece essere un uomo, con anche degli attributi piuttosto visibili nell'interno di copertina. E poi perché molte tematiche si riferiscono direttamente alla vita gay, al travestitismo, alle droghe, come tra l'altro Perfect Day, uno dei brani più famosi di Lou Reed, che può avere varie interpretazioni. La giornata perfetta è forse una lettura più approfondita della descrizione di questa giornata, può anche fare pensare insomma a varie metafore, perché in quel periodo Lou Reed era decisamente dedito come minimo all'uso di eroina. Certo, il fatto che poi il brano venisse usato in una delle scene più famose del film Trainspotting del 96, ambientato proprio nel mondo della dipendenza da eroina, come dire, aiuta a formulare questa ipotesi. Ma cose peraltro irrilevanti. Perfect Day è comunque una canzone straordinaria. Nel 97 viene scelta per la realizzazione di un singolo in favore dell'UNICEF, suonato dalla BBC Symphony Orchestra, cantata da Lou Reed con David Bowie, Elton John, Bono, Tom Jones, e insomma è una grande canzone. Ma in Transformer c'è un'altra canzone dove veramente non c'è spazio al dubbio per quanto riguarda il testo. Il pezzo si chiama Walk on the Wild Side. Il brano è un altro trionfo, anche se tocca in maniera esplicita la transessualità, la droga, la prostituzione maschile, il sesso orale, strofa per strofa, non si fa mancare niente. Il testo parla, diciamo, di un tipo di vita sicuramente vicino alla Factory di Andy Warhol, dove c'è la Holly che veniva da Miami e che si è rasata le gambe, così da lui è diventata una lei, che peraltro è una persona che esiste, Holly Woodlawn, nata uomo e diventata donna. E insomma si parla veramente di tutto un universo che fino a quel momento era rimasto molto spesso sommerso. My friends called me up and said, "Oh, turn the radio." I miei amici mi telefonarono e mi dissero: accendi la radio, Lou Reed ha scritto una canzone su di te. E poi andammo ad una festa e lui era lì, in un angolo, timido, silenzioso. Allora gli chiesi: come fai a sapere così tante cose di me? Rispose: Holly, perché tu hai una grande bocca. Lui ha scritto la verità, che mi sono truccato gli occhi, mi sono rasato le gambe e sono diventato una lei. Lui era circondato da queste cose per via della Factory, tutta la gente di Warhol. era quasi un voyeur. Scriveva le canzoni su quello che vedeva e sapeva. E al terzo lavoro che Lou Reed realizza quello che secondo me e secondo molti è il suo capolavoro più eccelso. Se mi dovessero dire con quale album andresti nell'isola deserta, io sceglierei questo, Berlin. È un album concept che analizza il fallimento di un matrimonio, è un album che si chiude con il suicidio della protagonista e i figli che vengono strappati al sopravvissuto, cioè all'uomo, mentre piangono andando via, portati via da un assistente sociale, dal letto insanguinato. Insomma, un album veramente tosto, dilaniante anche solo da ascoltare, per la sua sincerità, per la sua complessità. È l'album di Lou Reed, prodotto da un grandissimo Bob Ezrin, che diventerà famoso anche per la produzione di The Wall, che racconta l'ambiente e soprattutto mentale nel quale è nata Berlin. Per Lou, Berlin fu devastante, non tanto per le critiche che lo stroncarono e furono anche molto personali, cattive. No, non fu quello. Fu tutta l'intera esperienza, vivere in quel luogo oscuro, il luogo della dissoluzione dell'essere umano. Non puoi essere più depresso. I giorni erano corti, le notti lunghe, pioveva sempre. È stata un'esperienza umana deprimente, ma un'esperienza artistica fantastica. È il periodo in cui Lou Reed si rasa a zero, dà vita a album molto diversi tra loro. È Rock and Roll Animal, l'album dal vivo, e invece Metal Machine Music è un album di puro rumore, e poi album più commerciali come Sally Can Dance, e intanto c'è l'uso pesante di droghe, soprattutto metanfetamine, e poi Street Hustle, che vede la partecipazione di Bruce Springsteen, e poi The Blue Mask, che viene paragonato agli album di John Lennon tipo Double Fantasy. Insomma, sono anni di ricerca, sperimentazione e anche di pausa, fino a quando nell'87 la morte improvvisa di Andy Warhol getta Lou Reed in uno stato di prostrazione totale, da cui esce solo scrivendo, e da questa sofferenza nasce uno dei suoi album più sentiti, più profondi, un affresco della sua città dal titolo New York. E al funerale di Warhol Lou Reed incontra John Cale, con il quale decide di realizzare un album dedicato al grande artista. Song for Drella esce nel 90, è un'opera intensa e poetica, con i due che si guardano anche nel video come se si odiassero e si amassero al tempo stesso. E poi questa unione fa scaturire una reunion, anche se solo temporanea, dei Velvet Underground nel 93. Il gruppo si riscioglierà nuovamente l'anno dopo. Agli inizi degli anni 90 succede un'altra cosa molto importante per Lou Reed, che aveva sempre avuto una vita sentimentale devastante, controversa, plurisessuale. Insomma, la sfera dei sentimenti era una sfera che gli faceva male solo da vivere. Beh, Laurie Anderson cambia questa vita. Laurie Anderson è una musicista polistrumentista d'avanguardia che diventerà la sua musa ispiratrice, ma soprattutto che diventerà la sua compagna fino alla fine dei suoi giorni. Nel 2003 lui realizza uno spettacolo teatrale, l'album che viene derivato, lui lo chiamerà il lavoro dei miei sogni, perché riesce a combinare le sue due passioni, la musica e la letteratura. Lo spettacolo si intitola Poetry e l'album si chiama The Raven, il corvo, che rivisita in chiave rock l'opera e la vita di uno dei suoi miti letterari, Edgar Allan Poe. In some ways Poe is like an American Shakespeare. Poe è, per così dire, lo Shakespeare americano. Il suo linguaggio è molto ricco e scorrevole. Io sono un suo lettore, ma ho sempre con me un dizionario, perché lui usa molte parole arcaiche che non vengono usate di frequente. È interessante capire che autore meraviglioso fosse, che linguaggio affascinante usasse. Mi sono interessato in particolare a un racconto che si intitola Il genio della perversione, la cui idea di fondo è: perché siamo spinti a fare cose che sappiamo benissimo che sono sbagliate? Il genio della perversione è fantastico. Poi lui approfondisce come questa idea entri in tantissime cose della nostra vita. Ho preso vari racconti e saggi e li ho mischiati in una buia bestipo. E negli ultimi anni lui realizza raccolte di successi, incursioni nel mondo del cinema. Poi nel 2011 pubblica un album molto controverso, si chiama Lulu, che è un album ispirato all'omonima opera del compositore austriaco Alban Berg. Lou Reed la realizza con i Metallica. Di questo disco si parla malissimo. Secondo me ci rivediamo, ci risentiamo tra 10 anni, perché sarà considerato uno degli album fondamentali del rock del post 2000. Questo comunque è l'ultimo lavoro di Lou Reed, che nel maggio del 2013 viene sottoposto a un trapianto di fegato. Non ce la fa. Il 27 ottobre 2013, dopo aver fatto l'esercizio 21 del Tai Chi, che era diventata una delle sue principali occupazioni, Lou Reed muore. Il suo biografo Victor Bocris gli dedica uno stupendo elogio funebre. Io credo che Lou abbia avuto una vita meravigliosa. Quando aveva detto «la mia settimana vale un anno», aveva perfettamente ragione. Sperimentava le cose ed è sceso nelle profondità ed è salito alle massime vette, e per questo dobbiamo celebrarlo, perché lui era un grande esploratore che usciva alla ricerca delle cose e poi ce le riportava indietro con la sua musica. Una musica che ti prende, che ti cambia la vita, che tieni nel tuo cuore e non dimentichi, e diventa parte di te. È un grande traguardo. Ecco perché amo Lou Reed e amo la sua musica. And that's why I love Lou Reed, and that's why I love his music. E prima che gli occhi diventino lucidi, mi piace ricordare quanto Lou Reed sia stato fondamentale per la storia della musica rock e per la storia di tante persone, tra le quali la storia di quello che vi sta parlando. Se avete altre proposte su persone delle quali volete che noi si parli, fatelo segnalandocelo al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure sul nostro sito, oppure sui miei e i nostri social. Insomma, se volete, sapete dove trovarmi. Ciao, a lunedì.